Lo stand sicuramente più atteso, più visto, più seguito, al di là di quello Fiat Alfa Romeo Chrysler, sarà quello dell'Audi, perché l'altra grande stella di questo salone è la nuova Audi A1. La nuova Audi A1 è una delle vetture più interessanti di quest'anno. È una piccola che si va a scontrare direttamente contro mostri sacri come la Mini, come parzialmente la Mito. È una vettura che già adesso ha un grande riscontro sulla rete. Hanno iniziato con una campagna mediatica facendo leakage di informazioni e il gradimento del pubblico è alto. La vettura è molto attesa. Hanno svelato 2 settimane fa, se non vado errato, le foto definitive. Inevitabilmente la macchina è molto Audi, molto piacere, sembra già costruita per piacere. Probabilmente assisteremo a un nuovo fenomeno di moda.